incipit. Le borgate sono il nostro domani, ma il domani non si deciderà in borgata. Qui è l'arsenale del futuro, ma gli ingegneri abitano nelle acropoli. Questa non è che una sterminata sala d'attesa, una folla brulicante alla fermata delle astronavi. E adesso cominciamo. Allora. Più dell'orda! Il tono divertito, arrogante, con una punta di paternalismo, come si addice a chi in quella serata sta pagando di tutto. Le birre, le linguine con l'astice, il soufflé di spinaci, le tonnellate di pizza, mezza masticata e buttata per terra. Il sasso di cocaina di almeno 15 grammi che i sottoposti guardano con golosità, sasso totem, che quasi dispiacerà di polverizzare, come dispiace di intaccare un dolce meravigliosamente decorato. L'appartamento si allarga per oltre 200 metri quadri e dà un'impressione di lusso, pur essendo un alloggio dell'Istituto Case Popolari con il fitto bloccato a 70 euro al mese. Così spiega Gianfranco, padrone di casa della festa, mostrando orgoglioso le nicchie e i tripli bagni. Lui ha semplicemente abbattuto. To see. Si allarga per oltre 200 metri quadri. Ah, dà un'impressione di lusso, no? E anche se è un alloggio dell'Istituto Case Popolari con l'affitto bloccato a 70 euro al mese. E va bene, ma guardi qua, ci sono le nicchie e qui i tripli bagni. Ho dovuto fare abbattere due muri divisori e raggruppare tre locali. E poi pensi, mi è occorso di licenziare i precedenti inquilini con 2.000 euro. E comunque le cedole di pagamento arrivano regolari, cioè 35 euro per i due appartamenti e per il terzo niente! Niente! Ma l'istituto... L'istituto non si è mai occupato della cosa. E io nemmeno. Senta, Gianfranco, ma le è già capitato di scoparsi Marcello? Ma professore, gliel'ho detto prima! Più di una volta! Più di una volta, più di una volta, più di una volta, più di una volta, più di una volta. Convinta che il fatto la venderà autonoma, sta a furia! sulle prove. Mi cognato mi fa, Fiorella, sta a Bertini. Io gli ho detto, scusate, io c'ho il cellulare. A lei ho regalato un Samsung con tutte le funzioni del mondo. I muri al parto aperto di 4 centimetri, io sono l'ultimo a saperlo. Soccorso all'ospedale. La neonata è in prematura e non si trova in incubatrice. Il portantino lì dell'obitorio c'aveva l'asciugamano arrotolato. Prende sta asciugamano, lo poggia sul tavolo come fosse un oggetto, una pezza di stoffa. Quando che l'ha finito del sordolato, ho visto la ragazzina. Non sono riuscito a dir manco una parola. Loro ci saranno abituati, ma io no. I palestrati ti aspettano pure l'ora se gli dici di aspettare, li tratti male, ma non reagiscono perché hanno paura e perdere la piada. Io tante volte la roba ce l'ho a casa, ma passo finta che la devo recuperare per prolungare il rotico. Non c'avete più orgoglio, più dignità, più niente, siete l'ultimo anello della catena alimentare. Distete, consideri lo straccio, io te tratto da straccio, oh, più li fai umiliare, più gli fai piacere, ste merde! L'ho portato su casa, l'ho messo sul letto, ho fatto la valigia e me ne sono andato. E mi pareva che a Fiorella gli serviva un figlio, non gli serviva già un frate. Allora questo sa che c'è, c'è che bisogna attaccarli e metterla in culo al mondo, c'è che finalmente Gianfranco è libero, e va a vedere il bello. Solo 7 famiglie, dato che il secondo piano è occupato per intero da Fiorella col bambino. Il bambino è buonissimo, Fiorella. Di giorno dondola la testa, capoccione, così, e di notte non piange quasi mai. Marcello, il culturista del primo piano, che con quello che si inietta è sensibilissimo ai rumori, non si è mai lamentato per il piccolo. Si lamenta quando l'inquilina del terzo va a fare le pulizie da Fiorella e attacca la lucidatrice alle 9 del mattino, che è un'ora più del civile, ma per lui è il primo sonno. La Fiorella, la consumata, sta pavimento! Ma però, quando la vecchia signora scende col bambino in braccio e lui è a spasso con il suo inutile cane, mozzichetti, è gentilissimo. Sia con lei che col pubblico. Forse perché lui di figli non ne vuole. No. La scala A è una scala disgraziata quanto a bambini. Marcello è sterile. Flaminia, la moglie del romanista in affidamento diurno, è lei ad avere un'occlusione delle tube. Francesca, detta Cicci, la paraplegica che occupa l'altro appartamento del primo piano, potrebbe tecnicamente diventare madre, ma il destino infame ha soffocato l'ipotesi. Al terzo piano poi c'è Attilio, un separato, che vive con la madre settantenne, la signora Valeria, appunto. E infine una ragazza brasiliana, Fernanda, che fa la vita, e qui non è il caso. Si strilla molto, ingorgata, però le incazzature sono considerate fenomeni naturali, scivolano come acqua sul vetro. I due fratelli, che litigavano per una cattiva spartizione della roba, e uno gridava all'altro da ormai 5 minuti: t'ammazzo, t'ammazzo, t'ammazzo, t'ammazzo, t'ammazzo, t'ammazzo, fino a che una voce esasperata li interruppe. Oh, si poi la ammazzo io! Ma sai la famo di o quello che chiamava Pippo! Pippo! Pippo, Pippo! Pippo, Pippo! Alle 3 di notte, per svegliare Filippo, il verduraio, e si sentì rispondere flemmatico da un cocainomane. Oh, pure io, Pippo, ma mica faccio tutto sto casino. Chiara, la moglie di Marcello, si è affezionata a un ulivo cresciuto in una crepa della massicciata dietro i posti macchina, in un terreno infiltrato da liquami velenosi, tra cocci, cartoni sporchi, ricambi meccanici arrugginiti, in uno spazio così costretto e impossibile che nessun seme ci poteva attecchire. Eppure l'ulivo è lì, lucido, sano, con le foglie compatte come monete che riflettono il cielo. Chiara ci si va a rifugiare la domenica per sfuggire alla nausea, con un libro che non apre nemmeno. Si siede tra le radici, parla ai rami, visto che in casa non si può parlare di niente, e nemmeno il puzzo degli scoli le dà fastidio. È l'odore della vita. Vorrei che le giornate fossero sempre come a giugno. Lunghe, lunghe, lunghe, lunghe, lunghe. Piene di luce fino a tardi. A me non mi piace il buio. Mi fa paura. A me mi piace il sole. Li raggi su che illuminano le foglie dell'alberello mio. E io con ci parlo, tutto sciolto, senza vivere. Non so manco come ha fatto a nascere in mezzo a qua, eh. Mi siedo su di lui. Ci parlo. E sento che c'è da dire. Che tiene in casa una collezione di piante e le cura con precisione ma senza stolcinatezze è Francesca, detta Cicci. Sono piante grasse, spinose, di tutte le forme, dimensioni, in vasi colorati vivacemente, e lei non le mette sul balcone perché i gatti saltando potrebbero ferirsi. Certe volte quando alzo gli occhi fino alle cime dei pioppi laggiù, immagino di star sulle foglie. Come la barca. A fare altalena. Sotto al sole. Vabbè, va. Io non ho mai camminato perché quando sono nata io agli inizi degli anni 50 c'era il boom della polo... della poliomielite. E io ci sono cascata dentro. All'elementare ho capito che ero diversa. Volevo morire perché la suora m'aveva promesso che in paradiso avrei camminato. Eppure quando andavo al parco le mamme venivano a prendere i bambini che giocavano con me e dicevano: vieni via che la bambina è malata. E così con mia madre abbiamo deciso di lasciare il paesello che vedi in città, sperando che se notasse di meno. E poi era pure più comodo per gli ospedali. Ma non ho mai avuto paura di avere le mie storie d'amore, sa? Una volta, quando abitavamo al centro, una vicina di casa gli fa a mia madre: ma che era tu, figlia, quella che si stava struscia con giovanotto dentro una macchina verde? E mia madre, che era un tipo tosto come un mulo, gli fa: e me? Spero di sì, che non ce l'ha diritta pure lei come l'altre. E anche con me stava chiara. Un giorno ne fa: Ani, puoi aver tutto dalla vita se lo vuoi, se non piagni, capito? Io finché campo te sto appresso, ma se tu pensi che sta a piangere tutto il giorno, io apro la finestra e te butto le sotto e io appresso. Se siamo persi sta occasione, se siamo persi. E così da quel giorno ho fatto tutto, e settimane bianche sulla neve, e serate al Piper, gli amici mi portavano a braccia, ma la politica è stata la mia grande occasione. La responsabilità collettiva. Ah, bu, ma io una bottarella che darebbe, Sì, con tubo di ferro. Il far Partito Comunista! Ah. Ancora il Partito Comunista? E basta, basta! Professore, il Partito Comunista è stata la mia grande passione. Io l'ho seguito in tutte le sue trasformazioni, fino al Partito Democratico le USA. Che te credi? Una volta al congresso, il segretario che parlava dal parco mi guarda e mi fa: compagni, alziamoci e mettiamoci in cammino! Io lo guardo e gli rispondo: ma vabbè, ma proprio a me vuoi da te? Il Partito Comunista non c'è più! Io lo conosco bene il quartiere, fogna per fogna! Guarda queste ragazzette, mo, come se vivono il sesso! Se sono inventate sto gioco che si chiama arcobaleno! Sì, professore, arcobaleno! Entrano quei ragazzi dentro una cantina buia. Le ragazzette hanno dei rossetti di colore vistoso, diverso l'uno dall'altra. I ragazzi se calano le mutande e a secondo del colore del rossetto rimasto sul cazzo, devono indovinare chi delle ragazze gli ha fatto una pompa! Ma te rendi conto? Me fanno una pena, me fanno. Oh. Qua sono tutte da destra! Ma a me mi rispettano, sono pure protettivi. Sì. A professore, la casa l'ho ottenuta girando il giro mafioso della compravendita degli alloggi popolari! È così che mi sono fatta le ossa. Ma dica, c'ho pure un gruppo di compagni che mi viene ad aiutare tutti i giorni. È la vicina che mi fa da cucinare. Non mi è andata poi tanto male, no? Se lo dici te. Ma una cosa non gli è perdona il destino. Salvatore, un siciliano con certi occhi scuri, era anche un po' più giovane di me. Era tetraplegico. Oh. L'incidente di tuffo. Siamo andati a convivere insieme. Non volevo uscire, si vergognava, era incazzato col nonno. Ma io sono riuscita a tirarlo fuori dal buco dell'incazzatura. Se siamo comprati a Mercedes, se siamo andati in vacanza a Taormina, avevamo fatto 13 al Totocalcio! Ma quale 13 al Totocalcio? 13.000 pinci! Ah, che se sa che la madre di Salvatore ha detto bocca d'oro! Era la strozzina più famosa di Pietralata! Ma te ricordi? Io ti metteva in mezzo pure i miei fallimenti. Oh, compravi i debiti, io mandavo le scorte. Non mica ci crederai davvero che il figlio si è paralizzato con te. Se uso! Gli hanno sparato, gli hanno! Salvatore dipingeva sulla spiaggia col pennello in bocca. E mi ha fatto pure un ritratto. Questa è la sua ultima opera. Un tumore se l'è portato via 3 mesi. Hai capito l'idea schifosi? Danno pure una sofferenza supplementare. Ma io gli sono stata appresso. Giorno e notte non mangiava, ci aveva in piaghe. E se n'è andato. Quando andavamo a dormire, potevamo stare abbracciati, senza i carrozzini di mezzo. Era il contatto fisico che era importante. Come quando incontri l'ombra tua. E l'abbracci. Au! Mannaggia, sì, c'è una cosa bella qua le torri, mannaggia. È il panorama. Ah, beh. Dal 12° piano alle 7 di sera è tutto libero, fino ai monti. Oltre il crepuscolo delle borgate estreme. Un tramonto scenografico si stratifica de rosso. Sono colori da videogioco, da indiani e cowboy. Arancio così acido che ti ricorda il verde. Scarlatto denso, come il sangue. E poi quel cremisi scuro, un po' forzato, de certe rose di sera. Oh, io non sono corto, eh. Io facevo il tipografo a Corso Francia, stampavo pure libri d'arte. E io c'ho gli occhi per la bellezza. Alle Bibbia poi mi sono letto un sacco di libri nella biblioteca e mi hanno fatto pure le città. E com'era, ma? Antigone, avanti di quel pezzo, 7 guerrieri contro 7 porte. No, non so pezzo proprio, non mi ricordo, c'ho più la memoria. Dice che sono le canne. Che stati? No, le canne. Ah, i computer! Sono stati i computer che mi hanno fatto chiudere la tipografia. Mentre nelle canne gli elevavano a mia madre il lavoro di portiere. E io mi ero pure sposato con 2 figli e mi ero un piccato con muto ventennale. Si mise a giocare ai cavalli, ma rientrava sempre sotto. La moglie non sapeva niente perché aveva di badare i piccinetti. Ma poi, quando le cambiali sono diventate troppe, per primo se ne ito l'appartamento e per Samunna se ne ita la moglie e si portò via pure i vicini e i nipoti miei. E allora ho occupato una casa qua a Torbella. Ma qua stronza di mia moglie, che ragazzini c'è voluta venire? E mi sono ritrovato solo e disperato. Oh, andate, ci vediamo dopo. Oh, per fortuna l'ho conosciuto quei due rapinatori che abitavano al settimo piano, no? Anzi, uno al settimo, uno al terzo. Io non sapevo come si faceva, ma quelli mi hanno detto: "Oh, non ti preoccupare, basta che porti la macchina!" Poi già dalla seconda sono entrato armato e mi è piaciuto. Che dovevo fare? La moglie l'avevo lasciato! L'adrenalina che ti sale è una cosa spettacolare! Ti senti il padrone del mondo! Che so? Rapine! Sentrava la posta con una mazza ferrata. Una mazza ferrata, sì, perché la gente si spaventa a sentire la botta contro il vetro e ti sembra una revolverata. Boom! Addio, mamma Giulia mi fa picchiare. Boni, state buoni, quasi state calmi, se fa male nessuno. A 2-3 minuti eravamo fuori. Se si scava e si tornava a casa. Ero ricco, quando era povero erano 200 milioni. I soldi. Mi regalò pure una pelliccia. De lupo. E allora che ho cominciato a pippare? La cocaina. E praticamente il tempo libero era una cifra, si lavorava una volta al mese. Che faceva? S'annoiava! E qua una roba va di te. Gli amici non te mancano, no? Oh, niente di che vischelle, Certe ragazze dei Parioli, dei Piazza Giochi Delfici, con l'amiche, solo per la pippatina. Che era colpa sua se quelle buttane ci andavano appresso? E a sentire l'odore dei soldi. Pure la stronza di mia moglie è tornata a ruire. Puttana, che ho buttato l'auge. Perché una volta, appena soffiata, sono venute le guardie a smucinare un pochetto dentro casa, ti hanno trovato una saccocciata di 30 grammi. 30 grammi! Sì. La moglie se ne fu io con tutti i piccioli. E ora stavo solo povero e pazzo in galera. E ora i figli non lo vogliono vedere. Perché dice che è stato un cattivo pace. Ora, che è senza picciole, ma prima che l'aveva era magnifico. Uscito dal carcere, stavo senza casa, senza lavoro, amici scomparsi del botto, e mi sono messo a far buoni. Ma te te immagini, a quasi 50 anni, avevi a che fare con dei ragazzini che potrebbero essere tuoi nipoti. E allora mi sono inventato di andare a scucinare dentro i cassonetti, a cercare qualcosa di riciclabile da vendere a Porta Portese. Oh. Da principe della rapina a re della monnezza! E allora che ho conosciuto Saverio e Giussi. Giussi, una femmina strana, trasgressiva, gli faceva il pisello. E io ci facevo l'amore, mi dava pure il lato B. Saverio invece è impiegato al comune, ufficio giardini, ma sai come al comune, basta che ce l'hai, timbri il cartellino e te ne torni a casa, no? E allora, siccome pure lui pippava come un matto, pensa che certe volte potevamo scopare nel letto gli Giussi, con lui da una parte che ci diceva: "E fatevi spazio, e non fate casino!" Saveriuccio è il mio migliore amico. Io, se andavo con Giussi, non era per la mancanza di rispetto, Io amo entrambi, di un amore diverso. Amo tutte e due come famiglia! Chissà, Saverio, mo solo so bevuto per l'assassino dei Giussi. L'ha accoltellato e si è costituito. Io mi sono ritrovato solo un'altra volta. E mo su casa con mia madre mi annoio, non ti dica la sera, quando stai rincoglionita la glicemia, gli devo strillare e farmi sentire. Attilio, tu sei? Oh, e poi il sabato, quando la porta è discount, non si ricorda quello che c'ha dentro casa, l'ho comprato tutto un'altra volta. Ah, ma! E questi arrivano indiani, potevano resistere anno da serio! Senza che tu metta a fare lo spiritoso con mio! E ringrazio a Dio, che ci siamo immagini, che ne ripetiamo i figli a casa, sempre, sempre, sempre. I soldi, se non fosse per mamma, a me mi mortifica staglie sulla pensione per le sigarette, per la benzina. Oh, pare che sia quello di Campattanto, non è per amore ma per interesse. Ma che vuoi, ma questo è il prezzo della libertà. Perché io sono romantico, amico delle nuvole. Pensa che che una volta mi sono scopata una che c'aveva la gobba e solo per fargli piacere. Ah, perché sento coro è buono, Gioia. Oh, posso avere il sogno mio? Sì. Lo dico. Ma attento, vabbè. Il sogno mio sarebbe di andare a vivere con un circo. Io quando vedo un tendone mi innamoro come i ragazzini che montano, smontano, danno da mangiare animali. Ci vorrei portare pure Marcellino. Ci vuole venire a vivere al circo con me, Pensa ci stanno tutti animali e zebre, tigre, elefanti. Poi ci sono i robote che volano, intanto cascano, poi ci si chiama. Il professore con la sua sete assurda di spiegazioni la chiama depressione bipolare. Marcello alterna fasi di euforia che coincidono con le parentesi sempre più brevi di perfetta forma fisica a fasi in cui si chiude in casa e dorme o sostiene di dormire per intere giornate. In questi momenti down si isola con i telefonini spenti, le finestre sbarrate fino alle 3 o alle 4 del pomeriggio e dura così per un paio di settimane. Poi però si sforza di riprendersi, vergognandosi lui stesso dello stato in cui si trova. Ma te vedi come ti sei ridotto, eh? Ma te vedi? Che dai, che cazzo su? Ricominciamo gli scherzi. Se lui rutta potentemente, qualcuno gli dice: ah, ma c'è? È tutta salute! Risponde pronto: sì, tutta salute che se ne va. Ma è già meno pessimista. Riprende a guardarsi negli specchi e si illude di vincere tutti i confronti. Ah, poi è romantico. Piange sul delfino che sta morendo di nostalgia perché hanno assassinato la sua salvatrice. Oh, Cristiano magari si sa difendere, ma è una bestia. Le birre si riducono 3-4 e però non si conciliano con la dieta. E allora lui si butta sui diuretici, al dattone Lasix e sulle pillole brucia grassi a base di caffeina o di efedrina. Sicuro poi di questa protezione, riprende a sfondarsi con cofane disumane di carbonara e di rigatoni cavagliati. E risponde arrogante al professore: te non lo puoi fare. Perché? E perché? C'è il metabolismo di una tartaruga. Ma lo posso permettere solo io, che ho un fisico eccezionale. Poi però se gli incubi notturni sogna che gli sparano, uccidono il cane. Mozzichettino! Passato un altro paio di settimane, nota che gli tremano le mani. Lo riassale, la strizza e l'altalena ricomincia. Up, down, up, down, up, down, up, down. Si proclama, a modo suo, vittima della sfortuna. Oh, c'è una sfiga che si mi casca al cazzo, ma rimbalza al culo! O addirittura di una maledizione, ma in fondo lui desidera interrompere perché sono più di 20 anni che si allena e non ne può più di sale pesi, integratori, guardi, capito? Nell'intimo del cuore, però, lui lo sa, e il professore ha ragione, e quella che lui chiama sfortuna in realtà è una resa dei conti. Marce! No, ma tu veramente credi che io i soldi li fabbrico? No, chiedi e sprechi, oh, oh! Con tuo padre facevi così? Ah, pure peggio. Ah, sì? Andavo a trovare un fiscano. E ogni volta che mi vedeva gli piava il corpo. Eccola, e mo che c'è, che ha fatto? Ma no, niente, pa, volevo solo sapere come sta. Ah, ragazzi, me via per culo, che te serve? Ma che mi presti 200 euro? Orco due mi salvava sempre. Ah, sì? Beh, con me non ci contare, no, non ci contare, perché io non sono tuo padre. Io non sono tuo padre, eh? E poi con tutti questi soldi, no? Ma sai quanti escort? Oh, ma io so io. Chiara e Flaviglia, Chiara e Flaminia, così distanti fra loro per origine, per provenienza culturale, così diverse nella pettinatura, nell'abbigliamento, loro si incontrano spesso al supermercato e incasano con bevande complementari. Allora, i loro mariti saltano i pasti perché la cocaina gli toglie l'appetito e spesso loro cenano tra donne unendo le forze. Una compra i pomodori, un'altra compra la mozzarella, una compra le uova, un'altra compra il guanciale. Il loro problema principale, di cui spesso parla la dama, è come tenere sotto controllo i rispettivi coniugi. Bruno è violento. Beh. Marcello, un pezzo di pane. Bruno non l'ha mai vista la palestra. Marcello praticamente ce vive in palestra. Bruno è un ultra. Marcello non sa manco che significa la partita di calcio. Bruno è sempre pieno di voglia e di fuoco. Marcello non mi tocca da mesi. E qua che ti sbaglia, Marcello! Si può fare i parci comodi tua con l'altra, a tua moglie. Gli devi cavare l'asso del bastone, hai capito? Ringraziando a Dio, Marcello è sano de mente. No, a Bruno gli hanno proprio detto i medici. Scissione della personalità. Ora, fossero due o tre, uno dice, vabbè, ce vengo a patti. Ma tre o quattro o cinque? Ma come fai, oh? Io comunque non saprei che farmene di un mezzo uomo. Un rotto in culo che se l'è passato tutta Roma. Senza contare le trasferte. Abro. E voi? Però mi piacerebbe che qualche volta lo alzassi le mano. Ma se il prezzo da pagare due schiaffi in meno è de sta con frocio. Un po' di violenza ce l'ho! Io capisco i genitori che ammazzano i figli, perché quando hai provato tu e non ti rimane più niente da fa, allora dici, beh, io ne ci ho messo al mondo e io ne ce l'avevo! È una reazione d'amore. È una reazione d'amore. Certe volte però esagero e mi fa uscire il sangue. Come oggi, che sarebbe il nostro anniversario. Ah, Flami! Sei festeggia! E come no, festeggiamo! È il funerale! Mortacci! Ah, scusi, professore! No, no, ma... No, sai, io non appartengo alla borgata. Ah, no? No. No, io vengo proprio dal cuore dei Paioli. Il terrazzo dell'attico di famiglia da su Piazza Ungheria. Allora la sua è una famiglia... La mia famiglia. Io ho rifiutato il loro perbenismo e non mi importa del loro giudizio. Anzi, sono io che ho giudicato loro in via definitiva. Mio padre, il giudice, mi fa schifo. E sa perché? Perché si è venduto la dignità ai politici più orrendi. E mia madre, l'avvocato, è riuscita a perdonarlo. Io no. Ho chiuso con loro e con i loro soldi merdosi. Non li voglio vedere più. E il posto in ufficio me lo sono trovato da me. E non devo più niente a nessuno. Professore, io la borgata l'ho scelta. E ho scelto Bruno. Perché Bruno è vero. Professore. Bruno è vero. Amo? Sì. Te posso dire una cosa? Non dire. E donne, non so tutto sto non plus ultra. Ah, ma lei, me te va. A professore, io ci ho avuto pochissime ragazze, però tutte storie serie. Io non so tipo Marcello do coglio coglio. A me, mi piacciono le cose dove ci stanno i sentimenti. Poi sai che ti dico? Vista una fregna, viste tutte! Brava, lo sai! Ah, professor! Quando che poi parla del suo primo amore, beh, io faccio parlare! Nel cervello soltanto la Roma! Il mio cuore batte per te! Se, se! Soltanto la Roma! Prima ostaggio c'eravamo con mio padre. Dai 11 ai 3 era tutta in attesa. Scherzi, fumate. Iniziazione verso le sostanze stupefacenti. Ci ho avuto proprio ostaggio. Spinelli, voglio dire. Quelli che a modo vi ha per uso curativo. Ma scarica d'adrenalina. Era uno scontro fisico con gli altri gruppi d'ultra. A mentalità ultra è uno scontro fisico. Uno. Se fa parte del gruppo, c'ha degli obblighi di fratellanza. Se uno attacca il compagno tuo, e gli reagì! Sì! Hanno fatto tutto a sto casino per la gente della polizia porta a Catania. Ma si moriva ragazzo, che pure è successo altre volte, non credo se faceva tutta sta cagnara. La polizia spara pure a terza, ma pure contro i pischelli. Fanno i soprusi. Pure il sottoscritto gli hanno fatti, Quando che sono venuti a casa mia, che mi hanno arrestato per i fatti dello stadio, non te dico come si sono comportati! Tipo che io c'ho per solito un pezzo di fumo, no? Hanno trovato e il signore è andato al bagno, ha tirato la catena e ha fatto finta di buttare il pezzo e si è messo a zaccoccia. Io gli faccio, senti scusa, ma lei che... Non ti dico che mi ha fatto. Davanti a mia moglie, lei mo, davanti ai colleghi su. Ti ha messo le mani al collo. Ha messo le mani al collo. Ti ha messo le mani al collo. Ah, ho capito. Ho capito. Ah, beh. E me fa? Come cazzo te permetti da contraddirmi? Io l'ho buttato, zitto! E l'ha manettato! E m'ha manettato! L'immortacci tua! E no, porco due! E così nasce attrito! Ma che cazzo me ne frega, però laziale te l'ho già sbudellato prima, capito? Non è che un pezzo allora mi vendico, no, sarebbe una meschinità. Oh, ma mi hanno ripreso la telecamera, che sto a fare adesso tutto incappucciato. Oh, mi diverto così, a una certa sbrocco allora esagero, in carcere ci sono andato per i furti, ma voi stadio resistenza al pubblico ufficiale, dammi. Associazione a delinquere, dammi. Banda armata! Dai! Ci hanno rifermato via che sto a menare i mattoni, i bastoni! Tu sto a sbranare la camionetta con la sega circolare! Per la fine però non l'hanno mai beccato! Manco quella volta con Peppino! Abro! Ma che vuoi? Me la pinavo perché stava rota! E non volevo che la rota me la pagava mia moglie! Ma che cazzo sei? Il giacchetto! Il giacchetto! Era scoppiata una rissa dentro al locale. Imbracata la polizia. Non mi hanno trovato ai piedi una lama dei 20 centimetri. Lei che fa? Se mette sto giacchetto sotto la maglietta per far finta di essere gravida, no? Oh! Se ne interveniva lei, lo cazzi su per culo, eh! Ah, commissà! Ah, commissà, noi non c'entriamo, Non siamo stati noi! So io! So io che sono venuto a entrare per forza, per la voglia improvvisa del gelato delle fragole. E lui mi ci ha accompagnato, vero Ni? Sì. Pure domani mi deve accompagnare. Dovevo andare all'ospedale a fare gli esercizi di respirazione. Fagli vedere, Ni? Hai commissario? È sì comprensivo, no? E il commissario come fa? Vattene a fanculo, mischietti! Vattene a fanculo da tua moglie! E così... L'ho fatta franca! Ah. lascerà. Te che dici, professor? Si trova un guerriero meglio. Se guarderemo in faccia e mi farò spiegare la situation. Tanto si fa sbariare rompicoglioni. Mi ha lasciato con quel cesto. Non ho fatto in tempo ad abbracciarla. Mi ha lasciato così. Ma che cazzo stai a dire? Ma ho detto se va un sacco di soldi, oh! e il capo suo fa in giro con una Lamborghini, diavolo, ah bella! Fare una macchina così mi devo impegnare quattro culi. Siete uguali. Voi due siete uguali. Oh, mi muoio. E comunque, se trovavi uno che c'aveva voglia di lavorare, col cazzo che te la comandavi così? Oh. Allora mo sai che c'è? Io te lavo, te stiro le camicie, ma poi ognuno si fa i cazzi sua. Ognuno per sé, e Dio per tutti, eh? Figure, ma se già esisti 10 minuti senza di me, so troppo affascinante. Ma perché non te ne vai a fanculo dal professore? Eh? Vattene a fanculo da Walter! Va! È una notte d'amore matrimoniale. Dolce, rituale, senza arte. La TV, Jerry Scott, il Festival Bar, una sigaretta in cucina e poi il trasferimento in camera da letto. Thank you. Entriamo in sala, tenendoci per mano. Parole, friabili come il brontolio di un temporale che si allontana. Torno in camera a disinnescare un porno ormai inutile. Lui finisce il break e io gli conto le gocce di Lexotan. La cocaina, maestra di storia e di disegno, cancella le imperfezioni del tempo e conferisce ai nostri gesti una strana solennità. Rimbocco le lenzuola, Marcello si sistema il solito cuscino tra le cosce, storce il collo, tira indietro la testa, buonanotte, tacetto. Torniamo di sasso, senza sole, fino alle 9. Una lista di sole filtra dalla finestra. Ma sento una paura, ma un'altra oretta cessa tutta. La mia bocca allora si esercita in corollarie variazioni di te spossato, me la riempie e si lamenta che l'ho fatto sudare. Il male non esiste. Pace, bussa quando vuoi. Comunque il pupo non è del Gianfranco, ciò sapete, no? Che dici? Lei stava già incinta quando lui si era ripresa a casa. Dice che è di uno dei fratellastri. Per questo è il pupo. E meno male, il capoccio. Bello. Ma davvero? Andere, sì, davvero. Oh, io dico solo quello che sento. E qua si sentono certe storie, si sentono. E il Trottola, per esempio, che sta con quella puttana, come si chiama? Amari, come si chiama l'amica tua? Ma che, Fernanda Brasiliana? Brava, l'altra puttana. Ah, posso. Dice che manco esche più di casa quando arrivano i clienti. Anzi, pare che gli dà pure una mano quando ci stanno quelli che hanno i gusti strani. E a te chi te l'ha detta? Nina De Sergetto. Nina! Che buono solo che si sta muta, causano tutti che faceva la lacia. Ma che mi stai a dire? Bah, vista con questi occhi chi ti mio figlio. Attilio! Dici della rinascita! Ma è fatta la mancia di navegata, si sono chiamati o no? Vacanza premio. Una vacanza premio? E dove? Le Mantello. Che ha organizzato Gianfranco mio! Sì! Evviva Gianfranco! Ma che bella rincadriata, eh! A me di quanto sta elegante che stai parendo prima! E si è fatto pure accompagnare in bagno dalla fidanzata nuova. Sta fidanzata nuova, che dice che la nipote di un politico importante. A mia mi pare moggia, inchiappata e schifiosa. Una fregna moscia. A fregna moscia, uguale come la chiama Bruno. Ma oh, Bruno, cazzo, vai, che posso, che Marina malata. Cinema. Sì, del cinema muto. Perché dice che Gianfranco se vuole mettere a fare i firmi. Ah, ho capito, ma chi stava a litigare? Ma voi? Gianfranco stava a litigare con la fregna moscia. Quando? Ieri! Ho capito. E comunque c'ha ragione Valeria, quando ti dà la mano pare che ti dà lo straccio a mollo. Ma tanto a me che me frega. Io ci devo fare le pulizie e sono 300 euro in più al mese che abbiamo fanno di comodità. Certo, ma come lo fanno giocare l'appartamento? Una volta nel muro c'erano appiccicate tagliatelle, così mangiare schifo. Nel bagno, la vasca tutta piena di cicche. E una volta, sotto il letto, ci ho trovato batto di gattia, per la famiglia. Sotto il letto ci ho trovato. Di gomma. Nero. Vabbè, tanto io ci devo fare pulizie. L'ho preso, l'ho disinfestato tutto con la candeggina. Che ce l'ho posato. D'altro canto, studio di essere spagnolo, che tu lo dica a favore? Ho visto la femmina fino a 16 anni. Poi amore è arrivato, verso i 19, ma con una d'età anche manca, la più bella. Lucrezia! Ma puzza! L'avevo presa sotto gamba, capito? Invece mi ha fregato. Capirai, allora come immagino, col po' di birra a girare il mondo, no? Se no che a 22 anni mi è capitato sto cavolo di incidente della moto, che mi sono ritrovato tra clinici, ospedali, riabilitazioni e Lucrezia, proprio nel momento in cui sarebbe dovuto stare più vicino, ma me seguo. Ha fatto bene! Ma caso non hai amico mio, io non so. Ma riga, è migliore! Ma sei quando c'è nessuno? Tutto qua, ma quando per fatta a breve, se era andato a fare ansia, questo Renato, no? Che a letto, c'era pure un ragazzetto. Vabbè, sarò a pittare la pensioncina e passi come di loro, no? E il caso ha voluto che quel giorno a Roma c'è stato un temporale che te dico. Io allora mi sono preoccupato, giustamente, e ho chiamato al cellulare. Spento, come te sbagli? Allora poi casualmente, mi sono ricordato il numero della madre, che faccio... Che c'è, Lucrezia? Ma un sacco te. Ha detto che rimane al centro, per state vicino. Cano che poi mi è venuto a trovare all'ospedale. Non ci ha avuto neanche il coraggio di mentirmi. Te l'ho seguito per tutti i reparti con la sedia a rotelle! Senti un po', ma... Amedeo! Amedeo ti ho conosciuto l'ospedale. Te lo chiamo per conto, ecco. Sempre fosse questa chiesa di sera, lascia la mancia a tutti gli infermieri. Amedeo mi ha insegnato tutte le cose che dovevo fare. Loggia, coveina, certo io c'ho pure tanta voglia di scatto, di recuperarsi un pezzo dietro una struzza. Amedeo tra l'altro è stato quello più che mi ha inculato. Nel senso fisico intendo questo. Che mafia del cazzo al culo, eh? Ma io ho chiesto io, E che io c'ho un'attrazione a decretarmi, capito? Come se dovessi essere mio delle cose che ho fatto, che poi mi pento. C'ho ancora la mente creata quando stavo al collegio, tante ore. Sempre a Medeo, peraltro, c'era pure della tenenza nell'ambito dello spascio di grosso. E così ho cominciato a spasciare, però ce l'ho portato, Infatti pure mo che non spascio più. Ma ora comunque ributtare nell'ambito del commercio, capito? Magari immobiliare, il fondo che ne sa, certo, io c'è allora. Ma no, del commercio di più. Ah, ma c'è. Ah, però stiamo fuori. Ma c'è, ma c'è, io le ringrazio, però. Certo, mi sfondavo nella polizzante. Ma no, ma te non sapete che stiamo ringraziando, la polizzante. pezzo. Ma devi far sotto. I trapezzi c'hai pure troppo larghi per livello tuo. Ma soprattutto, te devi sgrassare al cardio. Ma come no? Adesso a forma seria comunque. Mica dopo che si tornessi uno dei primi d'Italia. Dio te a te. Una volta. Beh, una volta. No, ma ce l'ha, ce l'ha. Una volta gli esalzava pure la volta. Lo sai che c'è? E io mi sono sempre fidato di te. E tutti mi hanno sempre fidato. Voglio agire, volere è potere. Ma che vuol dire? Oh, dipende pure da quando stai. Ma mica è vero che siamo condannati fin dalla nascita, chi? A me vedi ste borgate. Non mi bastano più. Mi stanno stretta, capito? Amore, io gli ho fatto uscire. Ma appena altra strada. Di Pasolini Marino, ascoltiamo ora Teddy Boy. Dirige l'orchestra il maestro Roberto Marino. Ma sta persona, ma te fa schifo! Ma manco lo guarda, e voglio parlare per fare, ma pure che ok, se ci avevi un po' di pazienza! Ma voglio pazienza, e quando te sazzi! Ma mica come devo scappare! Oh. Ma chi si allarga uguale, senza voglia! Non hai visto che c'è con lui! Che anche di voi, io eccomi qua! Con viso bianco, senza pietà, il ciuffo rilassa lo sguardo che sa che il mondo va già. Oggi, ma se anche andiamo tutti assieme a noi e te? Ma andiamo? E proprio, lo sto a dire, andiamo lì e chi ci ammazza? Ma che sei matto? Che gli dica chiaro? Che gli devi dire? Niente, ci ripartire e basta. E poi che fanno? Se guardiamo nell'occhio. Amore, io senza una donna sono zero. E un te di voi, io eccomi qua. Con la mia cuzzi senza pietà. Gli amici giù al bar, le donne che già ristanno la città. Oh, ma stai niente, oh! Oh, ma niente, quando ti avanti quando via dietro, cioè, ma non voglio essere per capire perché sbaglio. Simona mia non vorrebbe mai. Ma chi, Simona la bagnina? Ma faceva le regali. Ma si ha preso più schizzi dallo scoglio. Oh, non sta a andare a parlare così con la gioia, cioè, non si è mai che la bagnina con lo schizzo. Ah, Chicago, ma che vuoi fare, sentimenti? Ci piace colpire, ferire, urlare, bruciati di whisky o di gin. Spaurito dal clan che tutto si dà al mondo che non sa. Marceli, lo sai che ti dico? Dimmi, che forse hai parlato di donne che... Oh, cosa mi fa? Ah, sì? Ma basta un pochino. Che problema c'è? Thank you. Pallini ha demografia a mio figlio. E in telecamere me lo vanno la portineria! A mia! Ora, faccio le pulizie da 10 appartamenti alla settimana. Più a biblioteca comunale. Sono stanca. Facciamo mia mano. Sogno stanca! Fitter, happier, more productive, comfortable, not drinking too much, regular exercise at budget, detailed. Ora! Che se buttate una trovata anch'io in galera! Come io farò le rumorici dopo pazzo! Era arrangiato! A safer car, prima, baby smiling, ah sì, la maglietta va a fare per scappa, quello non ce la faceva a calarmi, era furioso, dice tranquilla, c'hai la pensione, sì, la pensione, ti sa mangio le avvocate, perché puttana, on Sundays we go to the supermarket. Che mi mangio io? A bellezza! Baby strapped in backseat, a good memory, still cries at a good film, still kisses with saliva, no longer empty and frantic. Ti faccio vedere io come metto tranquillo! Oddio! Deve essere libero, ma non esci! Calm, fitter, healthier, and more productive. In a cage, on antibiotics. Io sono di peso per lui, lo so, lo so. Chi possa essere dannato se non ti amo. Se non fosse, non capirei più niente. Tutto il mio folle amore soffia il cielo, soffia il cielo. Ma l'erba suavemente delicata di un profumo che dà gli spazi mia. Tu non fossi mai nata, tutto il soffia il cielo così. Il derubato che sorride ruba qualcosa al ladro, ma il derubato che piange ruba qualcosa a se stesso. Perciò io vi dico, finché sorriderò, tu non sarai perduta. Ma queste sono parole. soffia in cielo, lo soffia in cielo. Scusi.